A bordo campo di Dario Ricci. Ho visto in sala, prima ho visto, ci sono delle ragazze, guardate quelle belle ragazze, le vedete quelle ragazze che ci sono lì? La nazionale italiana di pallavolo ha vinto il campionato del mondo, ne abbiamo qui una rappresentanza, ci sono anche credo due ragazze del... Venite ragazze, fatevi vedere, guardate che meraviglia! C'è la coppa! Ma c'è la coppa! Venite ragazzi, venite qui! Beh, bisogna, quando ci sono questi successi italiani vanno festeggiati! Ma guardate che meraviglia! Qua al centro voglio che l'Italia vi applauda! Davvero belle e brave le campionesse della pallavolo azzurra, ospiti di Fiorello in questo spettacolo fantastico. Tante campionesse protagoniste sul palco di Fiorello, tante altre, soprattutto l'intera squadra protagonista della World Cup in Giappone, dove le azzurre si sono confermate campionesse e hanno conquistato così trofeo e passo olimpico per Londra 2012. Ma adesso noi vogliamo in Turchia, perché c'è un'azzurra che in realtà quella serata con Fiorello se l'è persa, perché è impegnata nel campionato turco dopo aver trascinato alla grande le azzurre in campo in Giappone. Beh, Eleonora Lobianco, peccato non esserci stata, con Fiorello. Sì, ciao a tutti. Peccato perché fanno piacere anche questi riconoscimenti, no? Poter partecipare a una serata, un programma così seguito, sarebbe stato bello. Purtroppo, ripeto, io dovevo andare subito in Turchia, venire qui a Istanbul e ricominciare con la mia squadra e ho dovuto, insomma, rinunciare. Beh, però intanto ospite di Radio 24 è a bordo campo e scusate se è poco, permetteteci di scherzarci su, perché Eleonora Lobianco, per tutti Leo, della Nazionale Azzurra è la capitana, la trascinatrice e, permettimi Eleonora, anche dello sport azzurro, perché proprio in Giappone, oltre ad essere arrivato questo straordinario successo, per te è arrivato un record altrettanto incredibile. Hai superato la soglia delle 500 presenze in azzurro, sei l'atleta che in campo maschile e femminile ha vestito più volte di tutti la maglia azzurra. Te la ricordi la prima volta? Sì, me la ricordo molto bene. Sono entrata nella, in una partita a Montreux, nel torneo di Montreux nel 1998, e mi ricordo esattamente il primo palleggio che ho fatto. Ho palleggiato una veloce dietro a... allora c'era Antonella Bragaglia. E questo è il mio primo ricordo, la mia prima palla, diciamo, nel mio esordio con questa nazionale. Ecco, adesso a leggere il palmarès azzurro di Eleonora Lobianco, finisce la puntata, quindi io vado per sintesi, ma c'è un campionato del mondo a Germania 2002, tre ori europei, argenti e bronzi vari nella World Grand Prix e poi questo doppio straordinario successo nella Coppa del Mondo, che la prima volta nel 2007 e poi il bis recentissimo nel 2011. Eleonora, ci credevano in pochi, soprattutto dopo l'europeo chiuso al quarto posto, ci avete lasciato tutte a bocca aperta, ma come avete fatto a rinascere dalle vostre ceneri? Credo che alla fine, ok, l'europeo non era andato tanto bene, però sono momenti che in una squadra possono capitare. Sicuramente quando siamo tornate per, insomma, abbiamo cominciato la preparazione in Giappone, siamo tornate tutte con un altro spirito, perché tanto sapevamo che dovevamo lasciarci alle spalle il mese passato e provare a ricominciare pensando soltanto a questa Coppa del Mondo. E comunque non è che noi ci fossimo trasformate in giocatrici diverse da quelle che eravamo prima, si trattava solo di trovare alcuni meccanismi, alcune sicurezze che c'erano venute a mancare, quindi credo che siamo state brave a far questo. Senti, ma in questa squadra c'è ancora posto per Francesca Piccinini, che abbiamo visto ha saltato per motivi vari quest'ultimo appuntamento. Se vale la regola squadra vincente non si cambia, sarà dura per la Picci ritornare in maglia azzurra. Ma sinceramente non so, io nel senso so che Francesca ha dei problemi di salute, non è stata bene, quindi poi queste saranno questioni, insomma, di cui lei parlerà con l'allenatore, con la federazione e tutto quanto. Certo è che, voglio dire, Francesca è una giocatrice che più o meno come me è all'incirca da 12, 13, 14 anni in questa nazionale, quindi non penso che ci siano poi dei grossi problemi per un suo rientro, sinceramente. Sì, ecco, insomma, come si gioca a pallavolo mi pare che ormai l'abbia assimilato, ecco. Assolutamente, no, non credo che lo possa dimenticare per questo mese che ha saltato. E allora, insomma, porte aperte. Ma senti, piuttosto c'è stata anche la reazione di un gruppo che molto spesso, soprattutto dopo l'Europeo, era stato dato un po' per bollito, no? Nel senso, vedendo le carte d'identità, siete tutti atleti appunto sulla scena da molti anni, ma mi sembra che la voglia di rivincita sia più forte anche del logorio della vita pallavolistica, no? C'è quella Pechino 2008 che tutto sommato è una macchiolina in quel curriculum che va cancellata, no? Sì, ma diciamo che, ok, noi qualche volta scherziamo, diciamo che siamo un po' vecchie, perché in effetti adesso arrivano giocatrici con un 9 davanti 1990 o comunque 1989, 87, insomma, noi più grandi siamo in effetti, insomma, le anzianotte, però questo non vuol dire che non abbiamo comunque voglia di vincere ancora. È chiaro che magari facciamo un po' più fatica su certe cose, ma questo è un processo naturale nello sportivo. Sicuramente non mi piace quando la gente pensa che siamo bollite o che comunque non abbiamo più niente da dare, perché non è così. Ripeto, una squadra può essere in difficoltà, non per questo deve essere finita, insomma. Chi ha dei dubbi si riveda qualche partita di questa World Cup. Consigli da dare ai ragazzi che invece, arrivando a un pur ottimo quarto posto, hanno ancora una strada piuttosto complicata verso Londra? Consigli. Sicuramente sono i primi che vedono questa strada comunque ancora in salita, e soprattutto sono usciti per un quoziente, insomma, quoziente punti o quoziente set, non mi ricordo, però una volta è capitato anche a noi, non è facile da accettare perché comunque hanno fatto una buona World Cup, però sono assolutamente convinta che riusciranno a prendersi un posto nelle prossime, insomma, occasioni, perché è una squadra che sta facendo veramente bene. Non mollare mai, direi che è un motto banale ma che bene esemplifica la grinta che voi come squadra, e te in particolare, mettete in campo. Faccio riferimento anche a quella che è stata la tua avventura, permettimi di chiamarla così, fuori dal campo, no? Quando nella stagione 2010-2011 hai lottato, e probabilmente stai anche continuando, anche con minore intensità, contro un tumore al seno. È paradossale magari parlarne in questi termini, ma cosa ti ha dato questa esperienza in più? Perché credo che sia anche un'esperienza attraverso cui la persona, no, cresce molto e matura molto. Sì, senza dubbio è l'esperienza peggiore, diciamo, che si può vivere, ecco. Però ho cercato di trarne le cose buone, se così possiamo dire. Se devo dire la verità, all'inizio uno pensa, ok, dopo questa esperienza niente sembrerà più così difficile, le piccole cose che ogni giorno magari ti danno problemi non saranno nulla. Poi alla fine uno, non è vero, rientra nel meccanismo, insomma, di tutti i giorni, e se la prende comunque. La cosa che più mi ha dato questa situazione, questa avventura, chiamiamola così, va bene, è, insomma, prendermi un po' più con leggerezza, nel senso di non essere più così tanto critica, così tanto severa con me stessa, insomma, essere un po' più tranquilla verso di me, ecco, e verso alcune cose. Senti qua, Leo, ti chiamo con il tuo soprannome, che è ormai bandiera della pallavolo femminile. Qua ti vogliamo tutti portabandiera a Londra 2012. Si è scatenata un vero putiferio sul web, su Facebook. C'è una pagina Facebook in cui tifosi riempiono di messaggi proprio perché ti candidano per questo ruolo. Ecco, c'è un movimento popolare per assegnarti a questo ruolo. Ti ci vedi bene? Ti ci immagini? Mi ci vedrei bene, perché insomma sarebbe un ruolo che insomma è un sogno, dai, portare la bandiera è un sogno per un atleta, e insomma è un onore grandissimo. E io, come al solito, ringrazio chi ha iniziato, chi ha avuto quest'idea, e so che adesso sta diventando veramente un movimento. E quello che posso dire è, oltre a ringraziare, dire che io sarei onorata di poter portare la bandiera nel mio paese a una competizione così prestigiosa come l'Olimpiade. Se venissi scelta, insomma, spero di essere la persona giusta in questo ruolo, per insomma avere questo ruolo. Il resto lo faccia Facebook e soprattutto il CONI, che è chiamato a sciogliere questo nodo, ma insomma una candidata c'è e col sorriso sulle labbra, lontana dalle polemiche, il che ci fa doppiamente piacere. Ti sei trasferita in Turchia al Galatasaray Istanbul. Senti, da Istanbul si vede bene Londra, sì? Da Istanbul no, non si vede. No, io sì, mi sono trasferita qui per fare questa nuova esperienza e devo dire che, anche se sono all'inizio, mi trovo molto bene. È una città dove si sta bene, dove si vive bene, mi trovo bene nella squadra e insomma è una bella cosa secondo me per un atleta provare un'esperienza del genere. E allora Eleonora Lobianco, buona esperienza, buon campionato sul Bosforo e i Dardanelli, poi però ti vogliamo a Londra 2012 con una bandiera in mano. Saranno altri a decidere se la sventolerai durante quella cerimonia inaugurale, magari però speriamo di poterla sventolare su un podio olimpico, no? Sì, ma alla fine sicuramente quello che mi interessa di più è pensare di sventolarla sopra un podio. Per quanto riguarda insomma il portarla nella cerimonia, che sia io che sia qualcun altro, sono sicura che comunque sarà qualcuno che onorerà questo compito e perciò sono assolutamente tranquilla. Se sarò io sarò felicissima, se non sarò io andrà bene assolutamente. A bordo campo. E allora abbiamo appena sentito qui a bordo campo la viva voce di Leo Lobianco, capitano azzurro di questa straordinaria nazionale che ha conquistato la World Cup e ora sogna in grande in vista dei Giochi Olimpici di Londra 2012. E sappiamo anche che la Lobianco è fortemente indiziata a poter essere a poter essere la portabandiera della spedizione azzurra a Londra 2012. Beh, parterre delle aspiranti quanto mai ricco, ma la candidatura di Leo è sostenuta anche dalla Lega Volley di Serie A femminile. Allora ospite a bordo campo proprio il presidente della Lega Volley femminile di Serie A, Mauro Fabris. Benvenuto presidente. Grazie a voi, eccoci. Allora presidente, una scelta di campo importante quello della Lega, di supportare in modo così deciso, così forte, no, la candidatura di Leo a questo ruolo così prestigioso e significativo. Sì, noi pensiamo appunto che Leo abbia tutte le caratteristiche di essere la portabandiera alle Olimpiadi di Londra, e questo perché innanzitutto è una straordinaria atleta, è l'atleta che ha giocato di più nelle squadre azzurre, oltre 510 presenze con la maglia appunto azzurra, e nessuno come lei, insomma, né maschi né femmine, ha toccato questo traguardo. E poi perché è una campionessa che ha vinto, come lei ricordava, da ultimo appunto in Giappone solo poche settimane fa la World Cup insieme a tutta la squadra azzurra, conquistando con questo appunto il pass per Londra. E poi una donna che ha vinto anche delle battaglie importanti fuori dal campo, e quindi è una persona che crediamo veramente in questo momento potrebbe rappresentare benissimo questa identità di donna, di sportiva, di donna coraggiosa che ha saputo vincere le sfide sia nel campo come fuori dal campo. Ecco, sappiamo quanto sia delicato l'argomento portabandiera in chiave olimpica, no? Lo dimostrano le recenti polemiche intorno ad alcune dichiarazioni di Federica Pellegrini, e insomma il CONI sappiamo quanto ama essere chiaramente indipendente in questa scelta. Temete che in qualche modo anche la vostra discesa in campo così esplicita possa condizionare i vertici del CONI in senso opposto, oppure quale strategia state mettendo a punto per arrivare all'obiettivo? Ma intanto chiariamo che noi siamo dei tifosi, quindi noi facciamo il tifo per la nostra, e penso sia assolutamente legittimo e anche bello che così avvenga, fermo restando che ovviamente noi sappiamo perfettamente che sarà il CONI a decidere. Fin da ora diciamo che quello che deciderà il CONI a noi andrà benissimo, e tra l'altro abbiamo veramente rispetto assoluto per le altre, che peraltro sono tutte donne, che in questo momento si contendono appunto questa possibilità. Quindi noi parliamo, ripeto, da tifosi, da appassionati, sottolineiamo come nello sport a squadre, tranne una volta con il basket, non ci sia mai stato appunto un portabandiera a sfilare nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sottolineiamo gli elementi che ho detto prima per quanto riguarda Leo Lo Bianco, e poi vogliamo dire che si era già messo in moto uno straordinario movimento, veramente è il caso di dire popolare, perché autonomamente su vari siti, su Facebook e così via, dopo la vicenda sportiva e umana di Leo lo scorso anno, c'è stata questa azione, questa iniziativa che si è messa in moto. Quindi noi sposiamo una causa che era già partita per conto proprio appunto sul web e che ci vede convintissimi fino in fondo. Rispetteremo naturalmente le decisioni del CONI e non pensiamo che questa azione nostra possa nuocere, anzi. Ecco Presidente, direi un dato importante che ha sottolineato, che al momento attuale le candidate forti a questo ruolo sono tutte campionesse, sono tutte esponenti dello sport al femminile. Mi viene in mente appunto la stessa Pellegrini, che pur con tutti i distinguo, e poi Valentina Vezzali, Josefa idem, la stessa Lo Bianco. Segno che qualcosa sta cambiando nel nostro sport. Ma direi di sì, intanto le donne veramente conquistano dei palmarès che fino a poco tempo fa erano inimmaginabili, sto parlando per lo sport azzurro in particolare. Nella storia delle Olimpiadi noi abbiamo avuto solo 3 volte delle portabandiere donna, quindi il fatto insomma che in questa occasione quelle che si contendono l'essere il portabandiera della fiera nazionale italiana, appunto della spedizione italiana a Londra, sono tutte donne, significa che nel frattempo molto è cambiato da quando appunto nel 1896 si cominciò insomma ad Atene con la storia delle Olimpiadi. Presidente, altro elemento importante da sottolineare è il peso specifico che sta assumendo il campionato femminile. Vero che molte campionesse scelgono spesso campionati esteri per arricchire il curriculum professionistico e anche arricchire inevitabilmente la tasca, visto gli ingaggi che girano oltre frontiera, ma è pur vero che comunque esportare campionesse all'estero vuol dire che il lavoro che si fa sui nostri parquet, la nostra scuola pallavolistica, è di primo ordine. Assolutamente sì, infatti noi, certo, ci dispiace quando atlete titolate vanno a giocare in altri campionati, però è un segno, come dire, incontrovertibile del fatto che se prima eravamo paese importatore per molti aspetti, negli ultimi 10 anni, a partire dall'inizio degli anni 2000, appunto, quando la nostra nazionale di pallavolo ha cominciato a vincere gli europei, ha cominciato a vincere la seconda volta che capita con l'edizione di quest'anno di seguito la Coppa del Mondo, i nostri club, non vorrei che ci dimenticassimo che i nostri club di pallavolo in Europa hanno vinto, sono i più titolati, giusto lo scorso anno hanno vinto tutti e 3 i titoli nelle competizioni europee, appunto per squadra nella pallavolo di vertice. Ecco, tutto questo significa che c'è un lavoro continuo, quindi c'è un po' di dispiacere, ma c'è anche la soddisfazione di vedere che questo lavoro viene premiato. Ma non dimentichiamo che il nostro campionato rimane il campionato che, come dire, non ha uguali a livello europeo, proprio perché anche laddove sono andate a giocare alcune delle nostre stelle sono campionati abbastanza diversi, insomma, cioè molto meno competitivi, molto meno di livello agonistico alto rispetto a quelli italiani. Ci sono 1 o 2 squadre che se la battono, insomma, noi abbiamo un campionato, come si è dimostrato lo scorso anno, che su 12 squadre che partecipano, 7-8 fino alla fine sono in condizione di arrivare ai play-off e giocarsi lo scudetto. Quindi noi abbiamo un livello medio che è decisamente ineguagliabile, e questo consente appunto di avere questa fucina di ragazze, l'abbiamo visto anche il mondiale in Giappone adesso, di nuove ragazze sempre più giovani che entrano addirittura in nazionale e per questo si mettono in mostra. E allora, occasione per riconfermare questo livello qualitativo e queste ambizioni, quale ce n'è di più bella di Londra 2012, magari con Eleonora Lo Bianco portabandiera? Staremo a vedere. Intanto grazie a Mauro Fabris, il presidente della Lega Volley Femminile, per essere stato nostro ospite qui a Radio 24 a Bordo Campo. Grazie a voi.